Non c'è ancora la salita al Colle, almeno per il momento. Prima di andare dal capo dello Stato Giorgio Napolitano, il premier Romano Prodi vuole piuttosto portare la crisi in Parlamento. Franco Giordano di Rifondazione. Bisogna in tutti i modi rendere centrale il ruolo del Parlamento e discutere nel Parlamento italiano. Pretendere che la discussione sia fatta porta a porta e non nel Parlamento italiano mi pare osè come proposta. Il no dell'Udeur deve arrivare con un voto, questo vuole Prodi. Il Premier prenderà la parola probabilmente alle 10 in aula, subito dopo la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. E c'è già chi nella maggioranza vuole vedere gli uomini di Clemente Mastella votare contro la solidarietà all'ex ministro e leader di partito. Da parte dell'opposizione intanto Silvio Berlusconi invoca subito il voto, mentre Gianfranco Fini e Pier Ferdinando Casini si limitano a parlare delle sole dimissioni di Prodi. Mastella invece continua ad attaccare. Un errore non andare direttamente al Quirinale. Elisabetta Fiorito, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma.